ritmo de bolero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. We'll be right back. not be the ones outside, looking at the world go by. Saw you standing all alone. Wasted time is gone for good. Play no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. Life.

che non mi chiama di giù. E fatti so bene, si era con frigorifero e non trovano. Ma tu che vuoi mi rincellazzi vicino. Perché ti sei appoggiato là? Stavi cadente? E si è cassato la nantarani? Da catta una aspirina e pure appresso io. Ma posto che sole non ce la faccio giù. Ma piglio filo bus fino a dove tu? Ma piglio filo bus fino a dove tu? Bobo, e tu che hai fatto? Infatti so, infatti so te. Infatti so, infatti so te. Infatti so, infatti so te. I fatti so, so, so, i fatti so. Japanese girl, Japanese girl. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.